Il trucco funziona per le imprese multinazionali, che possono scegliere il sistema fiscale migliore per pagare meno tasse o non pagarle del tutto. Questa è la cosiddetta pianificazione fiscale aggressiva, che proprio a differenza di quella lecita, sfrutta il fatto che le regole del fisco siano diverse da paese a paese per ottenere vantaggi fiscali per le aziende contribuenti che lavorano anche all'estero e per non pagare le tasse dovute all'erario italiano. Basta utilizzare strutture o tecniche davvero complicate e all'apparenza regolari, come nel caso spiegato da Paolo Valerio Barbantini, capo settore grandi contribuenti. La sottoscrizione di strumenti finanziari complessi che consentivano di godere dei cosiddetti rimedi contro la doppia imposizione in maniera eccedente, nel senso che a fronte di una imposta che veniva in qualche modo versata su queste operazioni, il contribuente riusciva a godere addirittura di due rimedi contro le doppie imposizioni: un rimedio offerto dallo Stato estero, controparte dell'operazione, e un rimedio italiano. Risultato: grazie allo sfruttamento di due meccanismi fiscali di due diversi paesi, la multinazionale non solo totalizza zero tasse in Italia, ma ottiene rimborsi fiscali milionari proprio dallo Stato italiano. Nel nostro paese la lotta a questo fenomeno ha fatto incassare allo Stato più di un miliardo di euro tra il 2010 e il 2011, ma ci vogliono regole più precise anche all'estero per individuare contribuenti con comportamenti fiscali a rischio. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.